Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci qua, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia, è tardissimo, sono le 11.10. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, il nostro amico del venerdì, dottore. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Oggi sarebbe anche la festa dei nonni e io vorrei ricordarli perché sono i mitici nonni. Va bene. Io so che lei a questa festa non... Non a questa, non amo queste ricorrenze, queste feste ogni momento, ma comunque va bene. Però se avete un nonno, approfittate, fate gli auguri, baciatevelo, abbracciatevelo, perché i nonni sono delle figure indimenticabili. Allora, sommario e poi andiamo. La passione corre su due ruote. A dieta non ci sto. Invita la zucca a tavola. Allora, oggi parliamo di ciclismo, uno sport di grande impegno, di fatica e di costanza, ma, dottor Confalonieri, è anche uno sport che ci fa divertire. Sì, uno sport particolarmente piacevole e divertente, questi sono due dei motivi fondamentali per cui è così diffuso. È uno un po' sport... triste oggi lei, dottor Confalonieri. No, assolutamente, no. Adesso cambio espressione. Uno sport in questo momento di cui si parla molto, anche perché siamo reduci dai recentissimi mondiali in terra lombarda, potremmo dire, perché poi il Canton Ticino alla fine è terra lombarda. Ah, se l'è annesso così. Beh, insomma. Facciamo, va bene, tutto è... sono proprio così, i lombardi, si insomma, prendono tutto. Ci sono ancora i nostri castelli fino a Bellinzona. Vabbè, quindi... adesso guardi, mi verrebbero delle. Allora, cambiamo subito. Cioè, ritorniamo ad occuparci di ciclismo. Noi potremmo, in teoria, rivolgerci a tre gruppi di ascoltatori: quelli che si sono appassionati quest'estate e non hanno nessuna intenzione di appendere la bici al chiodo, hanno scoperto il ciclismo in vacanza e ne sono rimasti stregati. Oppure quelli che proprio possiamo definire gli staccanovisti delle due ruote, quelle che non ne possono più fare a meno, vanno quasi in astinenza se non salgono, certo, sul sellino, e invece quelli che, secondo me sono molti, non sanno ancora cosa fare, meglio la bici o mi butto sulla corsa, meglio la bici o continuo ad andare in piscina, insomma quelli sortentenna a cui vorremmo però dare una mano a prendere una decisione, perché tra dire meglio questo, meglio l'altro, poi uno non fa nulla e si ritrova sempre lì. 800 24 00 24, dottor Confalonieri. Sì, io è d'accordo, sono d'accordo. Vorrei dare intanto per cominciare tre motivi per convincere gli indecisi a scegliere la bicicletta. Il primo è uno sport assolutamente divertente, piacevole, si può fare in solitudine o in compagnia e soprattutto ci consente di viaggiare, che è una dimensione essenziale al nostro benessere. Il secondo è uno sport estremamente efficace nel determinare efficienza dell'apparato cardiovascolare e dimagramento. Il terzo è uno sport tecnicamente facile e che non sovraccarica più di tanto le articolazioni. Comunque, detti questi tre buoni motivi, noi restiamo in attesa degli ascoltatori. Siete fanatici? Volete cominciare? O siete ancora indecisi nonostante quello che vi ho raccontato? 824 0024 e invece quelli proprio che dalla bici non possono più farne a meno? Cosa diciamo? Loro li aiutiamo magari a gestirla con intelligenza, cioè a non esagerare. Scendere ogni tanto. Esatto. Vorrei chiederle un suo parere. Secondo lei il ciclismo è uno sport più maschile o più femminile? Ma è uno degli sport di gran lunga più diffusi tra gli uomini, mentre sono pochissime le donne che lo praticano. È uno sport in cui c'è veramente una differenza percentuale spaventosa, senza che questo risponda a problematiche fisiologiche particolari, quindi non si capisce bene perché. Però il mondo del ciclismo è tipicamente un mondo maschile. Questa è la sua ultima parola. Sì. 824 0024, avremo tra poco, dopo il nostro spazio del benessere, un ospite e forse qualcuno di voi. Vogliamo dare qualche indicazione, ma non svelare troppo? Un ospite che perché potrebbe non essere d'accordo con quanto affermato. Potrebbe non essere d'accordo. 824 0024. Chiamateci per i vostri dubbi, chiamateci per raccontare che cosa e perché la bicicletta vi ha stregato. Potete anche scriverci se non siete in bici. 349 238 6666. Anche per, se no, però quelli bravi vanno anche senza mani, no? Esatto. Quindi potete comunque scriverci o chiamarci. Una mela al giorno. Italia, sei sempre più grassa e farti dimagrire è difficile. Sino ad ora ogni tentativo è fallito, il giro vita aumenta, l'ago della bilancia si impenna, insomma ce ne sarebbe abbastanza, diciamolo, per dichiarare il fallimento, ma i nutrizionisti incassano il colpo e preparano una nuova strategia d'attacco. Basta con le diete mortificanti che vengono abbandonate nel giro di pochi giorni, adesso si volta pagina e si ricomincia da capo, partendo dal gusto. In linea con noi il dottor Fatati, buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Dottor Fatati, mi verrebbe da dire finalmente. O no? Sì, finalmente abbiamo capito. Abbiamo capito che eravamo stati troppo cattivi e soprattutto troppo rigidi. Perché dottor Fatati, voi le diete le fate fare a noi e voi non le fate. Quando qualcuno di voi ha iniziato a mettersi in dieta ha toccato con mano. Ma perché se uno non conosce il problema e quindi non è stato un po' cicciottello non può capire, quindi il dietologo bravo non è mai troppo magro. Ecco, quindi questa è già un'indicazione per scegliersi il dietologo. Tra l'altro i dietologi, i medici nutrizionisti potrete incontrarli in occasione dell'Obesity Day il 10 di ottobre, c'è la possibilità di consultare appunto i medici e di parlare di stile alimentare e di stile di vita. Trovate tutte le indicazioni, ma vi ricorderemo questo importante appuntamento nel corso della prossima settimana. Dottor Fatati, si ricomincia dal gusto in che senso? Nel senso che il gusto guida i nostri comportamenti alimentari. Una dieta che non tenga conto del gusto del singolo è destinata a fallire, perché diventa ancora più monotona di quanto già una dieta possa essere. Per questo abbiamo cercato di spingere tutti quelli che fanno il nostro lavoro a stare molto più attenti al gusto dei singoli e con un'anamnesi alimentare accurata, e proponendo una ricerca che a breve inizierà proprio nel mio ospedale, nello studio diciamo un pochettino più scientifico del gusto, nel senso di riuscire a fare per un bel gruppo di soggetti una mappa fenotipica dei recettori, ossia riuscire a individuare quanto i recettori del gusto apprezzano i singoli gusti, il dolce, il salato, e poi possibilmente confrontarla con la mappa genotipica, ossia con i geni che esprimono quei recettori. Questo per la ricerca potrebbe voler dire un passo in avanti notevole, perché in tempi non brevissimi ma nemmeno catastrofici, quindi in tempi medi, potremmo riuscire a mettere a punto una metodica che con un semplice esame della saliva ci consente di conoscere chi abbiamo davanti e quindi costruire delle diete, dei comportamenti alimentari su misura per il singolo e rapportati anche all'eventuale patologia. Dottor Confalonieri, vedo che è soddisfatto e annuisce. Annuisco per due cose che mi affascinano. La prima, vabbè, personalmente non credo sia stato l'unico, oltre ad essere un po' cicciottello, comunque morbido, non dica così, morbido. Ritengo sia fondamentale partire proprio da un'anamnesi e correggere eventualmente abitudini sbagliate senza imporre nulla dall'esterno. La seconda, questa strada dell'analisi del genotipo, del DNA attraverso la saliva per orientare alcune cose, pur essendo una strada per alcuni aspetti molto pericolosa, è una strada sicuramente interessante, una strada che adesso viene battuta per esempio anche nel mondo dello sport per capire quali possono essere le predisposizioni e i gusti in termini anche di esercizio fisico, ed evitando gli errori che potrebbero portare a una sorta di doping genetico è sicuramente una strada interessante, quindi stiamo muovendoci un po' tutti in questa direzione. E dottor Fatati, tra l'altro presso la vostra azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, voi fate appunto, partirete con questo progetto per conoscere con esattezza le preferenze del paziente. Che cosa gli fate fare? Gli fate assaggiare dei piatti o come vi organizzate? No, l'analisi fenotipica è molto semplice, sono dei quadratini di carta imbibita di varie sostanze che ripetono il gusto amaro, salato, dolce, e quindi facendoli assaggiare a scalare poi si riesce a capire qual è, quanto quel recettore funziona, o almeno quel singolo gusto viene apprezzato. Quindi è una cosa molto più semplice di come, è più difficile a spiegarla che a farla. Sì, praticamente lecchiamo dei quadratini di carta. Li teniamo in bocca, no? Ecco, neanche li lecchiamo, li teniamo in bocca. Quindi, insomma, un po' la poesia del piatto fumante di Rigatoni va, però, insomma, riesce a darvi comunque le informazioni necessarie. Dottor Fatati, io devo salutarla, però, perché so che lei deve tornare dai suoi pazienti, ma io le dico che insieme ricorderemo agli amici di Radio 24 l'Obesity Day, per cui si tenga pronto che faremo ancora un collegamento nella prossima settimana. No, io vi ringrazio come sempre e un'ultima battuta, io sono uno innamorato della bicicletta, quindi mi trovo in sintonia con l'ospite che avete. Secondo lei è più maschile o femminile? Ma è più maschile, ma in tempi passati era anche un'arma di conquista, no? Perché le cose più sensuali erano era l'uomo che guidava la bicicletta portando una dolce fanciulla, quindi. Ma vede, dottor Fatati, è vero, la ragazza che avevano le gonne un po' ampie, certo. Avevano le ballerine, insomma, nell'immaginario collettivo, è vero. Su questo aspetto il dottor Confalonieri devo dire che è abbastanza carente. Meno male, dottor Fatati, che l'ho sentita. Adesso la saluto con questa immagine dell'innamorato che porta in bici la sua ragazza. Grazie, dottor Fatati. Grazie a voi, buona giornata. Pronto soccorso. Dottor Confalonieri, lei in bici non ha mai portato nessuno sulla canna? Sì, sì. E allora? Non mi sembrava il caso di parlare di questa esperienza. Però è carino. Intanto ci scrive una nostra amica che non si firma, però mi piace perché dice: dottor Confalonieri, su dai, Tatiana Guderzo l'ha dimostrato nuovamente, il ciclismo è donna. Alessandra Cappellotto, campionessa del mondo su strada 97. Ecco, no, ho letto, era nella seconda riga. E quindi? E quindi abbiamo una campionessa del mondo che ci ha ricordato che quest'anno la campionessa del mondo è stata donna e quindi tendono un po' a contraddirmi. Bene, e chissà se la contraddice, noi ce l'abbiamo in linea. Tatiana, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Senti, ma che emozione e che soddisfazione per noi donne, per le amiche di Radio 24 che stanno davvero scrivendo tantissimi messaggi al 349-238-6666 e tutte hanno fatto il tuo nome. Ma grazie a loro, ancora una volta le donne riescono a mettere una pietra preziosa al collo. Senti Tatiana, io volevo chiederti, poi ci approfitteremo di te per dare consigli anche tecnici, ma quando ti hanno consegnato la maglia e sei tornata a casa, dove l'hai messa questa maglia? Ma sinceramente l'ho appoggiata sul letto di fianco con la medaglia, perché alla mattina quando mi sono svegliata ancora non ci credevo e dovevo gustarmi ancora questa maglia, dovevo toccarla, dovevo ancora realizzare il sogno che ho fatto. Senti, adesso non sogni più, sei sicura? Hai metabolizzato la vittoria? Ma un po' alla volta la sto metabolizzando, mi serve tempo, intanto ogni giorno nel doverla indossare è una gioia immensa e c'ho ancora un anno di tempo, dunque voglio vivere tutta questa gioia per i 365 giorni futuri. E certo, dottor Confalonieri, lei che proprio, io avevo Tatiana Guderzo in linea, lei mi va a dire che il ciclismo è maschile. E non si ricorda della canna, della bicicletta. Io ho registrato un dato, cioè il fatto che è uno sport praticato non si sa per quale motivo, soprattutto se non quasi esclusivamente dagli uomini. Quindi vorrei proprio chiedere a Tatiana, secondo lei come mai così poche donne scelgono la bicicletta e poi magari di essere lei la testimonial, quale miglior testimonial potremmo avere per portarne qualcuna in più in bicicletta? Ecco, queste sono un po' le due domande che le farei. Ma in passato di donne che andavano in bici erano poche, ma in questi ultimi anni ne incrocio molto per strada, dunque credo che il movimento femminile abbia avuto un riscontro positivo. Diciamo che adesso è più vista la donna in bicicletta, non è bellissimo vedere un'espressione femminile che fa fatica. Forse è questo un po'. E di fatica se ne fa parecchia, vero Tatiana? Ma decisamente sì, credo che una donna, come tutti per carità, facciano fatica, però una donna quando si punta su un obiettivo veramente soffre tantissimo. Senti Tatiana, ma come mai tu hai scelto il ciclismo? Ma io ho iniziato all'età di 7 anni grazie a mio cugino Michele Novello, che praticava questo sport. Era una bambina molto vivace che interessava fare tutti gli sport, basta non studiare. Poi ho visto l'esempio di questo mio cugino e ho seguito le sue orme. Quindi è uno sport che tu consiglieresti anche ai ragazzini, ai genitori in ascolto? Mettete il bambino sulla bici e la bambina? Ma io direi di sì, perché ormai la bicicletta è unisex, dunque vanno bene sia per i bambini che per le bambine. È uno sport salutare, si sta fuori all'aperto, con le belle giornate in famiglia, una bella passeggiata in bicicletta, cosa c'è di meglio? Poi se al bambino o alla bambina piace, continua questa grandissima esperienza. Senti, ma tu quando è che ti sei accorta che avevi una marcia in più? Ma io il primo anno che ho cominciato a correre, cioè a 7 anni, avevo una marcia in più con i bambini, comunque perché ero già più sviluppata dei maschietti. Poi quando l'ho preso più come un lavoro che come un gioco, come era iniziato, allora lì alle domeniche, dopo vari sacrifici, di allenamenti e tutto, vedevo che ero sempre nelle prime posizioni, allora da lì ho cominciato a crederci. Poi le persone che mi sono state intorno, che mi hanno allenato, lì continuavano a incitarmi su questa strada perché vedevano in me qualcosa di grande. E ci avevano visto lungo, Tatiana? Dottor Confalo... Ma direi di sì. Sì, io vorrei fare complimenti particolari. So che è una grandissima ciclista, me ne ha parlato anche il suo CT più volte, e soprattutto vorrei sottolineare una cosa: Tatiana è stata capace di vincere una medaglia alle Olimpiadi di Pechino, di ripetersi ad altissimo livello quest'anno col titolo mondiale, e con due gare completamente diverse, con percorsi completamente diversi. Quindi vuol dire che è una campionessa che va davvero oltre questo titolo mondiale. Grazie mille. Tatiana, un abbraccio. È vero che tu sei già in bici? Sì, ero in bici, mi sono fermata adesso per parlare. Ecco, pensate che per voi si ferma anche Tatiana Guderzo, scende dalla bici, facciamo scendere dalla bici una campionessa. Tatiana, un abbraccio. Grazie mille. Complimentoni, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie altrettanto, ciao. Eccoci, siamo tornati, parliamo di bici, abbiamo tanti ascoltatori in linea. Intanto un ascoltatore, Sergio da Bergamo, ci ha scritto: quest'estate abbiamo fatto una gita con tutta la famiglia in bici, è stata un'esperienza straordinaria, 3 generazioni, eravamo in 19, nonni, figli e nipoti. Allora mi veniva in mente che potrebbe essere un'esperienza proprio da ripetere in un'occasione della festa dei nonni, un weekend dove tanto i nonni in bici andavano, certo. Quelli che adesso sono i nonni di oggi sono stati, no, dei grandi ciclisti. Hanno ieri utilizzato tutti la bici nella vita quotidiana, sicuramente molto più di noi, quindi potrebbe essere una bellissima cosa il nonno che coinvolge figli e nipoti e vive questa esperienza in comune con loro. Senz'altro riprendiamo lo stimolo che ci ha dato Sergio per invitare un po' tutti a ripetere questa esperienza. Così fa anche lei gli auguri ai nonni, no? Esatto, abbiamo trovato Piero, il modo di farmeli fare. Piero invece ci scrive: sarebbe utile da parte vostra anche un accenno, un consiglio sul comportamento stradale da tenere, specie in città, perché molti ciclisti vanno in contromano. O sui marciapiedi. Sì. Va bene, e dovremmo invitare al volo un vigile, non so se lo troviamo. Intanto Biagio da Napoli, se c'è un vigile all'ascolto ci chiami, 800 24 0024, gli parlerei volentieri anche del mio blocchetto di multe. Biagio, buongiorno. Buongiorno, sono anch'io un nonno. Bravo, auguri Biagio. Grazie, ho 68 anni. Biagio dovrebbe abbassare un po' la radio, perché se noi sentiamo l'eco. La radio non ce l'ha. Allora ci racconti, perché la sentiamo un po' male. Mi dica, un nonno giovane, 68 anni, va in bici. 68 anni, sono un maratoneta da 30 anni, attualmente fermo per motivi, diciamo, muscolari, ho un problema, una contrattura muscolare. Sì. Sto, per non perdere la tonicità dei muscoli, sto praticando bicicletta e podismo a piedi, a passo svelto. Sì. Volevo sapere dal dottor Confalonieri se un'ora di passeggiata a passo svelto su un tratto pianeggiante di 10 km, facendolo con la bicicletta, lo stesso, diciamo, lo stesso percorso, il consumo delle calorie è uguale, è uguale o più alto? Oppure, diciamo, Grazie Biagio. E se in bici porta i problemi con la prostata. Bravo, anche questo ne parleremo. Dottor Confalonieri. Ma in linea generale il consumo calorico è più elevato nella corsa che non nella bici, quindi a parità di tempo d'allenamento un'ora di corsa comporta un consumo di calorico maggiore rispetto a un'ora di bici. Indubbiamente il sovraccarico però è molto maggiore. Quindi è più facile fare tutto sommato due ore di bici piuttosto che un'ora di corsa. E quindi direi che le cose si equivalgono in termini di efficacia. Poi la prostata sì, è un problema potenziale, riguarda una parte ridotta tutto sommato dei ciclisti, attualmente si può correggere bene con delle selle particolari che evitano il contatto tra la nostra zona pubica e la sella stessa, e quindi riducono gli effetti collaterali negativi a livello prostatico. Intanto Orazio, che ci scrive dalla Francia, a proposito dello sport maschile e femminile, ci scrive: le donne, anni 20, poi durante la guerra, poi dopo la guerra, partigiane, poi negli anni 50 e 60, quando pochi avevano la 600, le donne, anche anziane, si spostavano solo in bicicletta, soprattutto in campagna. Questo ci scrive Orazio e ci scrive dalla Francia. Magari è sur la côte. Andiamo invece a Ferrara. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi. Paolo. Niente, sapete che voi Ferrara è la città della bicicletta, comunque io ho approfittato quest'anno, ero in marzo, ero stanco di vedermi goffo e sovrappeso. Sì. Mi sono fatto aiutare da un nutrizionista e poi ho tirato fuori dalla cantina la mia vecchia bicicletta da corsa. Sì. E da marzo ad oggi ho perso 20 kg. No. Secchi. 20 kg secchi. 20 kg. E mi sento molto meglio. Credo. Il bello l'ho fatto lungo l'argine del Po col sole, quindi fortunatamente ho 53 anni ma ho ancora i miei capelli ed è bello sentire l'aria fra i capelli. E la preoccupazione e la domanda che faccio a voi è: adesso che arriva il brutto tempo, come faccio, che con la cyclette è una noia mortale? Ha ragione Paolo, anch'io ho provato seguendo i consigli del dottor Confalonieri sulla cyclette, ma mi sono stufata subito. Dottor Confalonieri, Paolo sugli argini lungo il Po col vento tra i capelli, pedala, ha perso 20 kg, adesso arriva l'autunno e poi l'inverno, cosa fa? Beh, innanzitutto adesso l'obiettivo credo sia stabilizzare il peso, non perderne ulteriormente, quindi si può ridurre anche la quantità totale di sport, e sappiamo che l'esercizio fisico in queste situazioni è ideale per ottimizzare gli effetti di una dieta, per cui Paolo ha fatto molto bene, ha seguito il nutrizionista e ha rispolverato la vecchia bicicletta. Io direi sabato e domenica sicuramente bici comunque, se l'intervallo di mezzogiorno può bici comunque, basta che non piova, il freddo non è un problema, se no Ferrara è la città della bici ma è anche la città della maratona, quindi lungo l'argine può andare anche soltanto camminando a passo svelto come faceva il nonno che abbiamo sentito prima, e gli effetti sono analoghi se non superiori, gli verrà anche quella fame di bicicletta per cui in primavera si riscatenerà. È anche un po' poetico lei. Raffaello invece ci chiama dalla provincia di La Spezia. Raffaello, buongiorno. Buona giornata a lei. Provo a dirle in 30 secondi la mia storia con la bici. Io vado in bici da 48 anni. La prima bici da corsa l'ho comprata, me l'ha regalata mio papà 38 anni fa. Sono la sesta bici da corsa, vuol dire che non ne cambio poi con tanta frequenza. Sì. La prima che avevo l'ho restaurata e sono tornata ad usarla. E ho girato praticamente mezza Europa, perché se vuole le dico qualcuna delle salite che ho conosciuto, dall'Italia alla Francia alla Spagna. Mi dica solo la più bella. Il Passo Giau e le Tre Cime di Lavaredo e il Mont Ventoux. Dottor Confalonieri? Ma d'accordo? io posso parlare dal punto di vista della bellezza di queste cose, non del gusto di farle in bicicletta, perché non le ho fatto. Sulle Tre Cime di Lavaredo si troverebbe totalmente d'accordo con mio padre, che le ha fatte tutte come alpinista e le considera una delle montagne più belle del mondo. Quindi Raffaello, il suo è proprio uno stile di vita, direi. Ha parlato della sua bici come di una fidanzata. Ecco. Ma poi la cosa più bella è che io fatico sempre di meno, perché adesso consumo un terzo di quello che consumavo 20 anni fa per fare le stesse cose, e cerco di ascoltarmi e dico: ho fatto tantissimi sport, almeno altri 10. Sì. La bicicletta non è mai stata in realtà uno sport, è stato un modo di vivere. E ho cercato anche di regalare questa mia opinione ad amici, figli, parenti. E li ha coinvolti? Coinvolti e convinti. Dottor Confalonieri, Raffaello ci dice: adesso faccio meno fatica, no? Sì, fa meno fatica perché è sicuramente riuscito ad ottimizzare il gesto tecnico da una parte, a ottimizzare la capacità di utilizzo del mezzo meccanico dall'altra, e poi comunque funziona meglio come organismo in quanto negli anni si è allenato, e si è allenato con continuità. Volevo sottolineare anche un aspetto che è comune a gran parte dei ciclisti: il rapporto estremamente forte che si stabilisce col mezzo, cioè con la bicicletta. È qualcosa di tipico di questo sport, è davvero un rapporto simile a quello che si può avere con un animale, se non con una persona fisica, di affetto vero. Non a caso il nostro ascoltatore ci diceva: ho restaurato e ricominciato a usare la prima bicicletta da corsa che ho avuto. È un po' come quel ritorno al primo amore che tanti di noi vagheggiano e che è più facile fare con la bicicletta che non con una donna o con un uomo. Allora Raffaello, devo dire che infatti ci ha portato verso questa dimensione, questo rapporto con la bici. Io voglio leggerle però questo messaggio di Enrico, che ci scrive, forse a proposito del nostro amico di Ferrari: ma non scherziamo, 20 kg non si perdono in bici. Enrico, infatti, il nostro amico ha detto: sono andato da un medico, mi ha messo a posto la dieta. Sì, e poi c'era un sovrappeso importante, se no 20 kg in così poco tempo non ha senso perdere, ed è addirittura pericoloso. No, tanto per... Finalmente Liliana da Lucca. Liliana, buongiorno! Buongiorno a voi, bellissima trasmissione, vi ascolto sempre. Senta Liliana, ma io ero preoccupata, dicevo: ma le mie amiche non mi chiamano, qua chiamano tutti uomini per dire che vanno in bici, noi abbiamo avuto Tatiana, e meno male Liliana. Noi siamo diversi. Che è a Lucca, che proprio tutte donne, che ogni tanto ci incontriamo, ma anche io vado da sola. E poi scopro proprio posti meravigliosi che prima non sapevo neanche che ci fossero. Infatti io ho sempre fatto sport. Sì. Negli ultimi 7-8 anni mi sono fermata perché la palestra, visto quando è sempre rinchiusa. E poi negli ultimi 3 anni ho avuto 20 kg in più, ho preso in questo frattempo di fermo totale. E ora sto andando dalla dietologa, sono 2 anni che faccio bicicletta, non è che ho perso molto ancora. Però senti già, io penso per la donna che faccia benissimo, perché rassoda i glutei e manda via la pancia. Dottor Confalonieri, è vero o capita solo a Liliana? Gluteo di marmo, pancia scolpita? Sicuramente rassoda i glutei, sulla pancia ho qualche dubbio in più, cioè non è così efficace rispetto alla perdita del sovrappeso localizzato della pancia. Sicuramente però c'è il potenziamento del gluteo e del bicipite femorale, quindi dà una forma più bella, più armoniosa. Liliana, lei aveva una domanda da fare al dottor Confalonieri specifica? Negli ultimo mese così sto accusando un po' di dolore alla bassa schiena, sì, tipo vicino all'osso sacro. Sì. Voglio sapere, c'è qualcosa che posso fare o che, sì, che posso magari ammorbidire? Dottor Confalonieri. Beh, potrebbe essere collegato alla bicicletta, e allora in questo caso bisogna intervenire sulla posizione in bicicletta. È uno dei problemi più frequenti per chi fa ciclismo: o ci sono patologie predisponenti, oppure semplicemente una posizione sbagliata che, aumentando la quantità di uscite, di chilometri e di lavoro, comporta un sovraccarico a livello lombare basso e quindi un dolore. Quindi dobbiamo andare da una persona che... Prima di cominciare è fondamentale farci mettere in bicicletta da una persona esperta, che calcoli chi l'altezza... Chi sono gli esperti? Dove ma li direi troviamo? Che ormai collegati a quasi tutti i negozi che vendono biciclette di minime andare dimensioni, c'è un esperto. Da un rivenditore fornito, avrà anche l'esperto. Che o fa direttamente questo lavoro o è in collegamento con qualcuno. Liliana, si faccia mettere allora in sella da un professionista e poi ci fa sapere. Eccoci, noi siamo tornati e ci scrive Anna da Milano. Per allenarsi, meglio l'uscita in gruppo oppure meglio la passeggiata in solitaria? Ma io direi privilegiate l'uscita in gruppo, si fa meno fatica, molta meno fatica, quindi si può fare uscite molto più lunghe proprio perché il gruppo riduce lo sforzo individuale, è anche più divertente. Le salite magari affrontatele da soli, perché la dimensione della salita in solitaria è sicuramente importante, utile, e quindi direi in salita da soli, in pianura in gruppo. Fabio ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ci racconti, Fabio? Io sono un 38enne appassionato di ciclismo, vado in bicicletta un paio di volte a settimana con la bici da strada. Sì. Un intervento relativo, e penso di pubblica utilità, c'era prima un ascoltatore che va in bicicletta sul lungo Po, sì, con l'aria tra i capelli, e consiglierei di mettere il caschetto ad ogni uscita. Sì, anche sugli argini? Sì. Dappertutto. Non solo in città. Ho avuto un paio di esperienze di cadere banalmente dalla bici, soprattutto con gli attacchi ai pedali, vai giù di testa e ho rotto due caschetti. Quindi assolutamente l'indicazione di Fabio da Roma, che magari il dottor Confalonieri condivide, caschetto. La condivido, assolutamente. Seconda... obbligatorio. Sì, non è obbligatorio ancora, spero che lo diventi. Obbligatorio, no, come consiglio. Obbligatorio come consiglio, diceva il dottor Confa. E l'altra cosa di carattere medico, biomedico, direi, se sì, secondo il dottore, avendo un problema al ginocchio sinistro, dovuto credo alla postura del piede o alla mia costituzione biomeccanica, devo approfondire, sì, se i plantari ortopedici possono risolvere anche a livello di scarpe tecniche da bici. Sì, la sento un po' male, Fabio, cosa sta facendo? Sto guidando il Lungo Tevere di Roma e vede, c'è un bel vedece. Allora, ginocchio per Fabio. Sì, il ciclismo è uno sport indicato perché ha problematica il ginocchio, perché c'è un potenziamento del quadricipite femorale, quindi una stabilizzazione dell'articolazione. Bisogna però capire qual è il problema e quindi se la pedalata in sé determina un sovraccarico specifico a quel livello e quindi invece di migliorare la situazione tende a peggiorarlo o a determinarla. Chi può dare una mano al nostro amico? Ma bisognerebbe capire meglio la diagnosi e quindi intervenire di conseguenza. Enrico da Milano, rapidamente, buongiorno. Buongiorno. Dico rapidamente perché il dottor Confalonieri deve scappare. Mi dica. Diciamo subito, do un po' la mia esperienza. Sì. 47 anni, pesavo 96 kg due anni e mezzo fa. A un certo punto avevo addirittura difficoltà ad allacciare le scarpe. Sì. Ho detto che bisogna cambiare registro. E ho poi avuto un incidente con un ginocchio e quindi mi è stato dato o piscina o bici. Piscina, ovviamente mi annoio. Lei ha scelto la bici ed è soddisfatto? Sì, sì, sì. Molto soddisfatto, sono sceso nel giro di un anno e mezzo a 84 kg, faccio dei giri, ho preso sia una bici da strada che una mountain bike. L'unico problema, ma è a questo punto è vantaggio, ho dovuto cambiare completamente tutti i miei vestiti perché le taglie sono scese di tre taglie. Sì, quello sì, in effetti bisogna cambiare vestiti, però la salute ci guadagna. Dottor Confalonieri, quindi abbiamo iniziato con una campionessa, direi che chiudiamo con il messaggio di Enrico, che è comunque un messaggio da campione nella prevenzione, perché comunque bici, è investito bici in... perfetta per dimagrire o più semplicemente per continuare a mangiare tanto e bene senza aumentare di peso, perché si consuma andando in bicicletta. Allora, dottor Confalonieri, la lascio scappare, però venerdì torna. Senz'altro. Grazie, allora, dottor Confalonieri, buona giornata. Direi che possiamo scendere allora dalla bici e andare verso la cucina. Oggi vogliamo parlare di zucca. È davvero facile preparare dei buoni piatti con questa regina d'autunno, però noi per usarle al meglio abbiamo chiesto una mano al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano e autore di Dieta Gift, la dieta di segnale, edito da Rizzoli. Dottor Speciani, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi. Vi hai chiamato ad un tema simpaticissimo, è la zucca io è un prodotto che amo tanto, a tutte le persone che seguiamo, ad esempio dal punto di vista dietologico, andiamo a spiegare che la zucca è un cibo, un alimento veramente dalle caratteristiche, ad esempio, non ingrassanti. Questo lo diciamo subito, così togliamo di torno un problema. Ma sai quanta gente chiama e dice: ma no, la zucca ho paura perché è dolce, perché è tanta, perché in realtà ha delle caratteristiche davvero importanti. Quando una volta che la secchiamo, cioè togliamo fondamentalmente l'acqua, alla fine ha una percentuale di carboidrati contro proteine di 3 a 1, quindi è ben bilanciata, è come se avesse già di per sé un contenuto proteico buono. E poi le calorie: 100 grammi di zucca sono 19 calorie, cioè circa come i sedani piuttosto che l'insalata, quindi davvero è gestibile molto bene. Quindi è un piatto che si inserisce, può essere utilizzato, è giustamente detto, dalla prima colazione, cioè dagli spuntini, piuttosto prima colazione forse magari difficile, però... Se uno fa la torta di zucca e cioccolato come quella che fa la mia mamma, io la mangio volentieri anche a colazione, le confesso. Vedi, infatti, anch'io sono della stessa idea, infatti ci sono degli elementi, io amo tantissimo la crema di zucca fondamentalmente, quindi vengono frullate, le metti a bollire, quindi benissimo, si impentola a pressione, oppure fatte per chi vuole conservare di più, magari le si può fare al forno a bassa temperatura, dopodiché frullandole completamente, e io amo aggiungere, una volta che è fatta, insaporire, quindi magari con un po' di peperoncino piuttosto che con un po' di noce moscata, piuttosto che, e io amo un po' come la fanno in Trentino, aggiungere un pochettino di proteine in più, quindi magari dei dadini di pancetta, dei dadini di prosciutto, qualche cosa che possa quindi dare una componente proteica aggiuntiva. E devo dire, è un piatto che alla sera io amo tantissimo, che non ha nessun tipo di sovraccarico pesante, con un velo d'olio e via. E poi insomma, l'uso nella parte dolce, rendiamoci conto che il suo dolce naturale è un po' come quello delle carote, no? Consente di non dover dolcificare una torta, per cui la famosa pumpkin pie che si usa ad Halloween diventa uno strumento positivo per poter mangiare con gioia, divertirsi con gli amici e non dover mettere su chili per forza nei posti sbagliati. E per oggi è tutto, noi ci sentiamo domani a mezzogiorno, a Questa casa non è un albergo, parleremo di homeschooling, praticamente di quei genitori che scelgono di non mandare a scuola i figli facendo loro lezioni in tinello in soggiorno, un fenomeno di cui parla il mensile 24 in edicola oggi insieme al Sole 24 Ore, e che approfondiremo anche domani con altri esperti. Allora io vi aspetto domani, intanto buonissima giornata da Nicoletta Carbone, grazie per essere stati con noi.